prossimo pezzo. Queste magre braccia protese gesticolanti a cantare una canzone che non verrà mai. Queste magre soddisfazioni a tagliare braccia a cantare una canzone che non verrà mai. Taglio, taglio, taglio, taglio, voto per il circuito, tu lo abbia mai pensato. Questo è il mio osso, il mio osso, il mio osso. Lasci, lasci, poco più là. Questa è madre ossa. Lasci, lasci, poco più là, così.